Cose diverse. ...776... Caffè. Vecchi ritiene il caffè originario della Persia, chi dell'Etiopia e chi dell'Arabia Felice. Ma di qualunque posto sia, certamente è una pianta orientale, sotto forma di un arboscello sempreverde, il cui fusto si innalza dai 4 ai 5 metri e non acquista per ordinario più di 5 ad 8 centimetri di diametro. Il miglior caffè è pur sempre quello di Moka, il che potrebbe convalidare l'opinione essere questo veramente il suo luogo nativo. Si dice che un prete musulmano a Yemen, avendo osservato che quelle capre, le quali mangiavano le bacche di una pianta di quelle contrade, erano più festevoli e più vivaci delle altre, ne abbrustolì i semi, li macinò e, fattane un'infusione, scoprì il caffè tal quale noi lo beviamo. Questa preziosa bibita, che diffonde per tutto il corpo un giocondo eccitamento, fu chiamata la bevanda intellettuale, l'amica dei letterati, degli scienziati e dei poeti, perché scuotendo i nervi rischiara le idee, fa l'immaginazione più viva e più rapido il pensiero. La bontà del caffè mal si conosce senza provarlo, ed il color verde, che molti apprezzano, spesso gli viene dato artificialmente. La tostatura merita un'attenzione speciale, poiché, prescindendo dalla qualità del caffè, dipende dalla medesima la più o meno buona riuscita della bibita. Meglio è dargli il calore gradatamente, e perciò è da preferirsi la legna al carbone, perché meglio si può regolare. Quando il caffè comincia a crepitare e far fumo, scuotete spesso il tostino e abbiate cura di levarlo appena ha preso il color castagno-bruno, e avanti che emetta l'olio. Quindi non disapprovo l'uso di Firenze, nella qual città, per arrestarne subito la combustione, lo si distende all'aria. E pessima giudico l'usanza di chiuderlo tosto fra due piatti, perché in codesto modo butta l'olio essenziale e l'aroma si sperde. Il caffè perde nella tostatura il 20% del suo peso, cosicché grammi 500 devono tornare grammi 400. Come diverse qualità di carne fanno il brodo migliore, così da diverse qualità di caffè tostate separatamente si ottiene un aroma più grato. A me sembra di ottenere una bibita graditissima con grammi 250 di Porto Rico, 100 di San Domingo e 150 di Moka. Anche grammi 300 di Porto Rico con 200 di Moka danno un ottimo risultato. Con grammi 15 di questa polvere si può fare una tazza di caffè abbondante, ma quando si è in parecchi possono bastare grammi 10 a testa per una piccola tazza usuale. Tostatene poco per volta e conservatelo in vaso di metallo ben chiuso, macinando via via quel tanto che solo ha bisogno, perché perde facilmente il profumo. Coloro a cui l'uso del caffè cagiona troppo eccitamento ed insonnia faranno bene ad astenersene o d'usarne con moderazione. Possono anche correggerne l'efficacia con un po' di cicoria o d'orzo tostato. L'uso costante potrebbe neutralizzare l'effetto, ma potrebbe anche nuocere, essendovi dei temperamenti tanto eccitabili da non essere correggibili. E a questo proposito, un medico mi raccontava di un campagnolo, il quale, quelle rare volte che prendeva un caffè, era colto da un'indisposizione che presentava tutti i sintomi di un avvelenamento. Ai ragazzi poi l'uso del caffè sarebbe da vietarsi assolutamente. Il caffè esercita un'azione meno eccitante nei luoghi umidi e paludosi ed è forse per questa ragione che i paesi ove se ne fa maggior consumo in Europa sono il Belgio e l'Olanda. In Oriente, ove si usa di ridurlo in polvere finissima e farlo all'antica per beverlo torbo, il bricco nelle case private è sempre sul focolare. Su quanto dice il professor Mantegazza, cioè che il caffè non favorisce in modo alcuno la digestione, io credo che sia necessario di fare una distinzione. Egli forse dirà il vero per coloro a cui il caffè non eccita appunto il sistema nervoso. Ma quelli a cui lo eccita e porta la sua azione anche sul nervo pneumogastrico, è un fatto innegabile che digeriscono meglio. E l'uso invalso di prendere una tazza di buon caffè dopo un lauto desinare nella conferma. Preso poi la mattina a digiuno, pare che sbarazzi lo stomaco dai residui di una imperfetta digestione e lo predisponga a una colazione più appetitosa. Io, per esempio, quando mi sento qualche imbarazzo allo stomaco, non trovo di meglio per smaltirlo che andar bevendo del caffè leggermente indolcito ed allungato con l'acqua, astenendomi dalla colazione. E se noiosa ipocondria t'opprime o troppo intorno alle vezzose membra adipe cresce e dei tuoi labbri onora la nettarea bevanda ove abbronzato fuma ed arde il legume a te d'Aleppo giunto e da moca che di mille navi popolata mai sempre insuperbisce. Venezia, per i suoi rapporti commerciali in Oriente, fu la prima a far uso del caffè in Italia, forse fin dal secolo XVI, ma le prime botteghe da caffè furono colà aperte nel 1645, indi a Londra e poco dopo a Parigi, ove una libra di caffè si pagava fino a 40 scudi. L'uso si andò poi via via generalizzando e crescendo fino all'immenso consumo che se ne fa oggigiorno. Ma due secoli addietro il re Edi nel suo dittirambo cantava: «Beverei prima il veleno che un bicchier che fosse pieno dell'amaro e reo caffè». E un secolo fa pare che l'uso in Italia ne fosse tuttora ristretto, se a Firenze non si chiamava ancora caffettiere, ma acquacedrataio colui che vendeva cioccolata, caffè e altre bibite. Goldoni, nella commedia La sposa persiana, dice per bocca di curcuma schiava: «Ecco il caffè, signore, caffè in Arabia nato, e dalle carovane in Ispan portato. L'arabo certamente sempre è il caffè migliore, mentre spunta da un lato, mette dall'altro il fiore. Nasce in pingue terreno, vuol ombra o poco sole, piantare ogni 3 anni l'arboscel si suole. Il frutto non è vero che esser debba piccino, anzi deve esser grosso, basta sia verdolino. Usarlo indi conviene di fresco macinato, in luogo caldo e asciutto, con gelosia guardato. A farlo vi vuol poco, mettervi la sua dose e non versarla al fuoco. Far sollevar la spuma, poi abbassarla un tratto, se 7 volte almeno, il caffè presto è fatto».